Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sono gli anni 40 a Torino. Nella città sabauda si vive un clima di fervore antifascista. Una mattina come tante, Fernanda raccoglie i suoi lunghi capelli biondi e si barda nel suo cappotto di lana. È molto presto e fa freddo. Deve uscire e raggiungere il centro città, dove tiene lezioni di pianoforte per guadagnarsi da vivere. Dopo che i fascisti hanno defraudato il padre di gran parte delle sue fortune e l'hanno mandato al confino, Fernanda è sfollata a Mondovì con la madre. Ma ogni giorno, quando si reca nel capoluogo piemontese, passa davanti alla sua vecchia casa. Quel giorno c'è della gente raccolta sulla porta d'ingresso. Cos'è successo? Le SS hanno arrestato suo fratello Franco, che usa la vecchia abitazione di famiglia per nascondersi dall'esercito. Suo fratello è un disertore. Fernanda pensa subito al peggio, alla fucilazione, ad Auschwitz. Suo fratello viene portato in piazza San Carlo all'Hotel Nazionale, il quartier generale delle SS. Fernanda dimentica le lezioni e corre da lui. C'è un equivoco, non è lui che cercano, ma l'intestatario di un contratto che hanno trovato nella casa editrice Einaudi, fondata nel 1933 da Giulio, figlio del futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, ed entrata subito nel mirino del fascismo. Il contratto è per il lavoro di traduzione di un libro americano proibito dal regime. Il cognome è giusto, Pivano, ma il nome è stato per errore trasformato in un nome maschile, Fernando. È uno scambio di persona. Fernanda Pivano nasce a Genova nel 1917, in una famiglia vittoriana, figlia del banchiere Riccardo Pivano e Mary Smallwood. In casa Pivano si parla inglese, francese, ma non l'italiano. Nel 1929 si trasferisce a Torino, dove avviene la sua formazione scolastica e apprende la lingua italiana. Qui frequenta il liceo d'Azeglio, è in classe con Primo Levi. Entrambi non vengono ammessi all'esame di maturità perché i loro temi sono considerati non idonei alla pedagogia del fascismo. Il suo amore per la letteratura è subito evidente. La famiglia Pivano è l'ambiente ideale dove far fiorire la sua passione. La biblioteca del padre conta più di 10.000 volumi e qui Fernanda può leggere e cominciare a conoscere i grandi. Era un uomo che parlava 6 lingue, che aveva una biblioteca, lui sì che aveva una biblioteca preziosa, dove io andavo al sabato pomeriggio un quarto d'ora. Lui mi dava un libro da leggere, mi spiegava che cos'era e poi mi chiedeva che cosa pensavo di quello che mi aveva dato il sabato prima. E questa è stata la mia prima vera scuola. Uno degli incontri che metteranno Fernanda sulla strada di una certa letteratura è quello con Cesare Pavese, che è suo professore per un anno al liceo d'Azeglio. Cesare Pavese viene arrestato durante una lezione e mandato al confino per le sue idee antifasciste. Per Fernanda è una scena già vista, un'immagine che le rimane impressa per molti anni, fino a quando lo rivede al suo ritorno. Fernanda ormai è all'università. Cesare chiede alla madre se può dare lezioni private a quella ragazza così aperta nei confronti della cultura e così promettente, con la quale sente di condividere lo stesso orientamento alla vita, alla libertà. Parlano di letteratura. E quando Pavese le chiederà perché ha deciso di fare la tesi sulla letteratura inglese e non su quella americana, Fernanda risponde ingenuamente: perché? Qual è la differenza? Quella ragazza è troppo sensibile per lasciarsi scappare questa occasione, pensa Pavese. È carta assorbente, è pronta a conoscere il nuovo continente. E così una sera, in portineria, le lascia un plico di libri di scrittori americani. Sono 4. Incartati in una carta da pacchi arancione e i titoli scritti con la penna stilografica. Quello che Fernanda legge per primo è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, una raccolta di poesie in forma di epitaffi, e sente subito il desiderio di tradurle su un suo quaderno. La semplicità dei versi, in un clima come quello italiano del ventennio, dove tutto deve essere epico, le fanno venire voglia di passare da una lingua all'altra in un atto di pura creazione, non solo di trascrizione. Un giorno Pavese, con grande piacere, nota che alla ragazza piacciono gli americani e vede la traduzione, anche se incompiuta, di Spoon River. Adesso avrà capito qual è la differenza tra la letteratura inglese e quella americana? Prende quel quaderno e decide di mandarlo in stampa presso l'amico Einaudi. è il 1943. Il Ministero della Cultura Popolare non oppone resistenza al libro perché il permesso di stampa è per un libro dal titolo Antologia di esse puntato River, una raccolta di pensieri di un fantomatico San River. Con quella prima pubblicazione si diffonde anche nel bel paese il manifesto della controcultura. È un libro che parla di pace, contro la guerra, contro il capitalismo. Non c'è ragazzo che non ne abbia in tasca una copia. Diventa un bestseller clandestino fra gli adolescenti antifascisti. Comincia così, quasi per gioco, e all'ombra del regime, la passione di Fernanda Pivano per la libertà e per gli scrittori americani che la sanno interpretare, quella libertà. Passione che sfocerà nell'incontro della sua vita con il più grande di tutti. Per me l'America ha significato la libertà in un periodo in cui la libertà in Italia non c'era. Voi siete così giovani che non lo sapete, ma in quel tempo la libertà non c'era. Quando la libertà è arrivata, io sono andata in America a cercare quelli che erano stati gli autori dei miei sogni. In quel plico lasciato le importinerie da Cesare Pavese c'erano altri tre libri. Fili d'erba di Walt Whitman, l'autobiografia di Sherwood Anderson e Addio alle armi di Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, il libro che le cambia decisamente la vita. Fernanda comincia così a tradurre quelle opere e ad interessarsi alla letteratura americana, quella che canta la libertà dalle costrizioni sociali, la libertà dalle guerre, dalle imposizioni. Il sentimento che anche lei sentiva crescere dentro e che in quel momento è solo al principio. Ma torniamo a quella fredda mattina del 1943, quando Fernanda scopre che le SS hanno arrestato il fratello per via di un equivoco su un contratto di traduttore trovato durante una perquisizione alla Einaudi. Qual è il libro in questione? È Addio alle armi di Hemingway, libro antimilitarista, politicamente scorretto per il periodo. Dopo il successo della traduzione di Spoon River, la casa editrice torinese chiede alla Pivano di occuparsi della traduzione di quest'opera e Fernanda accetta. Viene redatto un regolare contratto, peccato solo per quell'errore nel nome che fa scattare un tragico scambio di persone. Fernanda cerca in tutti i modi di far capire al capitano tedesco che tiene prigioniero il fratello in una delle stanze dell'Hotel Nazionale che lui non parla una sola parola d'inglese e che non può essere in nessun modo un traduttore. Allora chi è il traduttore? Io. Ich, risponde Fernanda. L'arresto è immediato, anche se le è permesso tornare a casa. Da quel giorno, però, è costretta a farsi accompagnare ovunque da un soldato tedesco. Ogni sera, a qualunque ora della notte, la sua casa a Mondovì viene perquisita per vedere se ospita partigiani. Una situazione che rende impossibile il clima familiare, peraltro già compromesso dalle vicende paterne. Lei e la madre non si spogliano nemmeno per andare a letto, per paura di essere sorprese dalle SS. Ma cosa non piace al fascismo di Addio alle armi? O sarebbe meglio dire, cosa non piace di Hemingway al fascismo? Nel 1923, Ernest viene inviato dal Toronto Star, per cui fa il giornalista, al convegno della pace di Losanna, che doveva stabilire i nuovi confini tra Grecia e Turchia, al quale partecipa anche Mussolini. Il 27 gennaio del 1923 viene pubblicato l'articolo che il dittatore non gli perdonerà mai, relativo a quell'incontro, dove Hemingway definisce Mussolini il più grande bluff d'Europa e prosegue. Si vede la sua debolezza nella bocca che lo induce ad un cipiglio, imitato da tutti i fascisti diciannovenni d'Italia. Esaminate il suo genio per rivestire piccole idee di grandi parole. Guardate la camicia nera con le ghette bianche. C'è qualcosa di sbagliato anche istrionicamente in uno che indossa ghette bianche con una camicia nera. La commistione di dati autobiografici e l'invenzione che caratterizza tutto il romanzo offre al regime un'altra occasione per vietare il libro, come la descrizione della ritirata di Caporetto, che l'autore descrive con tono antimilitaristico, in totale contrapposizione agli orientamenti dell'epoca, pur non descrivendo in realtà quella vicenda, ma riadattando la ritirata dei greci dalla Tracia, alla quale assiste nel 1922 come giornalista. A che serve? A che serve? Via, Rinaldi! A cosa serviamo noi per l'Italia? Siamo buoni solo ad arrenderci! Zitto! Lasciate! Che i tedeschi raccattino quest'immondizia con la pala! Essere la traduttrice di un libro come Addio alle armi, un libro proibito dal governo Mussolini perché mette in cattiva luce il valore militare italiano e che diventa negli anni 40 uno degli idoli dell'antiamericanismo antifascista, non è quindi molto raccomandabile per una giovane ragazza in quel periodo. Ma la famiglia, la formazione e l'ambiente culturale che Nanda frequenta le fanno trovare la forza per accettare quell'incarico, così pieno di responsabilità e di conseguenze. Quell'audacia le permetterà qualche anno più tardi di fare l'incontro della sua vita, quello che darà alla sua professione e alla sua passione la spinta definitiva. Ernest Hemingway nasce il 21 luglio del 1899. All'epoca in cui Nanda entra in possesso del suo romanzo, è già uno scrittore di successo. La sua vita è traboccante di esperienze che regolarmente riversa nelle sue opere, a partire dall'infanzia, in una casa sul lago nel Michigan, dove impara a stare all'aria aperta e ad amare la natura in maniera sconsiderata, tanto da sfidarla più e più volte da adulto in imprese di caccia o di pesca. I suoi vivono vicino a una riserva indiana e sono amici degli indiani. Ernest li frequenta sin da bambino e cercherà tutta la vita di emulare il loro passo, camminando in maniera molleggiata, quella camminata che per molti è da attribuirsi più al suo carattere da duro, alla Humphrey Bogart, che ai ricordi d'infanzia per quella nobile popolazione. La famiglia ha un peso enorme nella sua formazione, come individuo prima e come scrittore poi. Ma anch'io ho qualcosa da fare. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di tre piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Un giorno capirai. Nei primi anni la madre lo veste da bambina. A 5 anni rischia la vita per la prima volta, si ferisce la gola con un ramoscello e torna a casa senza farsi impaurire dall'emorragia. Il padre medico gli insegna a canticchiare per dominare il dolore. A 10 anni gli regalano il primo fucile da caccia. Hemingway matura così i tratti del suo carattere. Macismo, sprezzo del dolore, temerarietà, amore per il safari. Ernest si distingue a scuola per la sua capacità nel descrivere situazioni e inventare storie. Il suo primo racconto esce nel 1916 sul mensile scolastico Tabula. Finito il liceo però, si rifiuta di andare all'università. Vuole partire per la guerra, per fare esperienze. Ma per un difetto all'occhio lo riformano dal servizio militare. Sono gli anni della Grande Guerra. Comunque, dico, ci potrebbe essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che malgrado l'apparenza è contrario, ha la salute minata e non se la sente mica. Allora, vero, un rinvio, poi sdebitandosi, si intende. Sarebbe anche un'opera di umanità. Ma che dovrei dire io? È romano abile a rollader, milanese riformato. Un amico di famiglia consiglia a Hemingway di trasferirsi in città, a Kansas City, e di cercare un posto come apprendista al giornale locale, lo Star. Verso la metà di ottobre del 17, accetta l'incarico di cronista per $15 la settimana. Eppure la guerra lo attira. Vuole vivere esperienze pur continuando a scrivere da giornalista. Il lavoro allo Star è il mezzo per perfezionare la sua scrittura, non c'è dubbio. Oltre allo stile asciutto, semplice, tipico del giornalismo che lo accompagnerà per tutta la vita, il periodo presso il giornale lo aiuta a trovare nelle persone che incontra i suoi personaggi. Un giorno arriva al giornale l'annuncio della richiesta di reclute da parte della Croce Rossa. Ad Ernest non sembra vero. È andato allo Star per rimanere lontano dalla guerra, però il destino sembra chiamarlo comunque al fronte. Presenta la domanda prima che l'annuncio venga pubblicato e alla fine di aprile del 1918 arriva il telegramma che lo fa partire. Il 23 maggio salpa a bordo della Chicago e arriva a Parigi durante il primo bombardamento tedesco. Dopo 2 giorni parte per Milano, si trasferisce poi a Schio, in provincia di Vicenza. Ma il fronte non è abbastanza vicino per le ansie e la curiosità di Hemingway. È il periodo della controffensiva lungo il Piave. Le trincee sono vicine. Ernest vuole andarci di persona. Mi scusi, capitano. Sono salito a dare un'occhiata. Le nostre linee sono qua sotto. Il nemico è su quell'altura davanti a noi. Lavora negli spacci della Croce Rossa ed ogni giorno sale in bicicletta fino alle trincee carico di cioccolata, sigarette, cartoline da consegnare ai soldati in prima linea. 6 giorni intensi, ad osservare con l'occhio del reporter affinato al giornale e l'occhio del poeta ogni singola azione, catalogando esperienze, sensazioni che gli serviranno i 10 anni successivi per scrivere Addio alle armi. Dopo 6 giorni, verso la mezzanotte dell'8 luglio, vicino a Fossalta, mentre distribuisce cioccolate ai soldati, viene colpito dai frammenti di un mortaio. Con le gambe cosparse di schegge, si carica sulle spalle un ferito. Ad Hemingway vengono in mente gli insegnamenti del padre. Comincia a canticchiare per dimenticare il dolore. Dopo 50 metri, una mitragliatrice gli dilania il ginocchio destro. Riesce a trascinarsi per altri 100 metri col soldato in spalla, finché sviene vicino a una barella con la quale viene trasportato in un posto di medicazione. Passa di ospedale in ospedale, da Treviso a Milano, dove arriva qualche giorno prima del suo 19° compleanno, il 17 luglio del 1918. Qui comincia la sua avventura italiana. Si innamora dell'infermiera Agnes von Kurowski, esperienza che gli serve per scrivere la seconda parte di Addio alle armi. Sono solo alcuni degli episodi che dalla vita passano ai romanzi. È la vita quella che conta, come imparerà anche Fernanda Pivano, che al momento dell'incontro con lui non ha nemmeno 30 anni. Siamo già nel secondo dopoguerra, è il 1948, quando Fernanda viene raggiunta da una cartolina che la invita a Cortina, firmata Hemingway. In Italia la Costituzione è entrata in vigore da poco. Lo stesso anno viene approvata la Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU. I conflitti internazionali sono lontani. Si pensa alla ricostruzione di paesi, di coscienze. L'antimilitarismo adesso è una necessità. Si aprono le porte alla libertà. Anche in musica si respira libertà. Sono gli anni del jazz, che si impone con la sua carica rivoluzionaria sull'imperante swing. E Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Louis Armstrong inaugurano una nuova melodia e un nuovo modo di vivere. Destini incrociati. Destini incrociati è in Italia, nell'immediato dopoguerra. Nel 1943 una giovane ragazza appassionata di letteratura americana è stata incarcerata durante la guerra dai nazisti perché traduttrice di un libro proibito dal regime, Addio alle armi. Quella giovane ragazza, 5 anni più tardi, nel 1948, riceve una cartolina dall'autore, Ernest Hemingway, che la invita a fargli visita a Cortina. Ha poco meno di 30 anni, si chiama Fernanda Pivano. Da quell'incontro Fernanda comincia una nuova vita. Quando ho incontrato Hemingway a Cortina avevo più o meno quell'età, una 30 d'anni, non mi ricordo, piuttosto meno che più, ed ero molto bellina, devo dire. E avevo tradotto questo di Alle armi, i nazisti mi avevano arrestato e c'era stata tutta una storia per questo arresto dei nazisti, ma io pensavo che fosse un affare senza conseguenze. Invece un giorno ho ricevuto una cartolina da Hemingway che mi ha detto: vieni a trovarmi a Cortina. E io ho pensato che fosse uno scherzo e ho buttato via la cartolina. Allora dopo qualche giorno me ne ha mandato un altro: se non vuoi venire a Cortina vengo io a Torino. La sua incredulità è ovviamente legittima. Come può conoscere il suo nome e il suo indirizzo proprio lui, il suo mito? Pensare ad uno scherzo è il minimo. Sono passati alcuni anni da quella vicenda durante la guerra, però a Nanda viene in mente quel clima e per un attimo si sente al sicuro nella nuova Repubblica. Niente regimi, niente dittature. Quel soffio di libertà e antimilitarismo è nell'aria più che mai. Sarebbe bello se fosse davvero Ernest. Lei non ci crede, finché non arriva la seconda cartolina. E da quel punto non ci sono più dubbi. Quello che sembra un sogno si avvera. Lui la vuole vedere. Raggiungere Cortina non è propriamente facile. Mananda compra il biglietto del treno e parte una mattina all'alba. Parte da Torino, arriva a Venezia. Poi da lì prende un trenino, quello delle Dolomiti, che si inerpica su fino al paese per fare l'ultimo tratto di strada. Proprio su quei sedili freddi, mentre il paesaggio dai finestrini cambia rapidamente, Fernanda pensa alla sua vita, alla sua passione per la letteratura americana inaugurata proprio con quella disavventura nazista, e sorride. Se questo l'ha condotta da lui, non è stato poi tutto sbagliato. Fernanda ha una camicia bianca, un maglione a V di cashmere, una gonna beige. Ai piedi porta degli scarponcini. È autunno inoltrato, e in montagna può esserci freddo. Ha portato con sé una piccola borsa dove ha messo un cambio. Non si può andare e tornare in giornata da Torino a Cortina. E poi vuole avere tutto il tempo necessario per parlare con Hemingway. Un'occasione come quella non capita spesso. È all'albergo Concordia, che tiene aperto fuori stagione solo per lui e i suoi amici. Quando Nanda entra nella sala da pranzo, sono ormai le 9 di sera. Vede subito una tavolata di una ventina di persone che discutono e bevono. Si è alzato da tavolo e ha attraversato la stanza con le braccia aperte. E io ancora adesso ho pelle d'oca, pensarci. E mi ha abbracciato, uno hug, mi ha stritolato le ossa, e mi ha detto tell me about the Nazi. Così ho capito che lui sapeva tutta la storia, insomma. Hemingway sa tutto ed è curioso. Vuole che Fernanda racconti com'è andata quel 1943. Passano 2 giorni a conoscersi. Nanda, come una scolaretta, cerca di imparare il più possibile da lui. Ascolta ogni racconto, ne fa tesoro. Lui capisce subito che la passione della ragazza è formidabile. Cerca di ripercorrere con lei le tappe di Addio alle armi, il libro che li ha fatti incontrare. Le parla della ferita fossalta, dell'infermiera di cui si è invaghito, delle altre vicende personali che l'hanno condizionato. L'Italia è un luogo pieno di ricordi, di esperienze per Ernest, o Mr. Papa, come si farà chiamare da lei. E Nanda è un motivo in più per sentirsi legato al nostro paese. Passano 2 giorni in mezzo alla natura, come piace ad Ernest. E tra un racconto e l'altro fanno anche delle escursioni, con una Buick Cabrio blu, aperta nonostante la temperatura. Qualche bottiglia di gin, la sua bevanda preferita nelle ore diurne, e la moglie bardata sul sedile posteriore, mentre Nanda davanti, di fianco a lui, lo sente raccontare dei safari, della caccia, della pesca, dell'Africa, della Spagna, di Cuba. Quante vite in una sola, pensa Fernanda. E quella libertà che sentiva dentro quando si è avvicinata al suo libro, adesso sembra premere di più. Sono passati ormai 20 anni dall'uscita di Addio alle armi e molti altri romanzi sono entrati nella vita dello scrittore, magari meno autobiografici, ma di grande spessore. Eppure quello rimane il punto di partenza, sia per lei che per lui. La gita a Cortina è finita. Hemingway viene spesso in Veneto, va a caccia con nobili del posto e si ferma spesso anche a Venezia. Quel primo incontro è andato molto bene, si è divertito. Vuole rivederla e così la invita a passare il Natale insieme a Villa Aprile, una casa affittata da Hemingway per le vacanze. Nanda accetta. Non le sembra vero. In quella settimana lo vede vivere la sua quotidianità. Sveglia molto presto al mattino, il lavoro inizia alle 6 o addirittura alle 5. Poi, verso le 12, comincia la processione degli amici con i quali si confronta su quello che ha scritto. La porta della camera è sempre aperta e sul comodino ci sono 2 bottiglie di Valpolicella a tenergli compagnia per la notte. Per macchina da scrivere ha una piccola portatile che usa per scrivere piccoli messaggi. Se gira il nastro dell'inchiostro sul rosso, sono scritti privati per la moglie o per gli ospiti, mentre le frasi scritte in blu possono essere inserite nel libro in corso. Le cose che scrive Hemingway non sono sempre lineari. C'è molta innovazione nella sua scrittura, ironia, doppi sensi. Quando i genitori leggono Addio alle armi, si vergognano subito della scrittura così audace del figlio, audace per l'epoca, ovviamente. Ma Ernest è per la descrizione della vita così com'è. Quando gli daranno il Nobel nel 1954, dirà che gliel'hanno dato perché né il vecchio e il mare non ci sono parolacce. Nanda lo ascolta. Cerca di imparare da quello scrittore così rivoluzionario, colui che ha inventato un nuovo modo di scrivere. Frasi brevi, coincise. Soggetto, predicato, verbo. Soggetto, predicato, verbo. Punto e a capo. E poi di nuovo. Il suo modo di narrare con un'aderenza alla realtà che viene dall'ansia di abolire le sovrastrutture. Singole parole che reggono un'intera pagina. E poi i suoi racconti, cominciati a colazione, protratti fino a tardi, su Gertrude Stein, su Fitzgerald e John Dos Passos, con una tale familiarità che è come ascoltare una storia letteraria all'americana, vista attraverso i protagonisti, prima che attraverso le opere. Quell'incontro sta per dare i suoi frutti. A Fernanda si risvegliano certi interessi, vuole approfondire. Quell'incrocio di destini la sta mettendo, è il caso di dirlo, sulla strada. Gli anni del dopoguerra sono difficili per Hemingway, mentre Fernanda sta incominciando una nuova carriera. Ernest entra in un vicolo cieco, una specie di passaggio del testimone in quell'amicizia dove Mr. Papa cerca di trasferire un po' del suo amore per la vita e la libertà. Chiede a Mondadori che sia lei la sua traduttrice ufficiale per l'Italia, non solo per ripagarla del torto subito con quell'arresto per Addio alle armi, ma anche perché si fida di lei, della sua capacità di cogliere il pensiero dell'altro e ricrearlo, non solo trascriverlo, in un'altra lingua. Anche il traduttore deve sapere volare. Bisogna volare, diceva. Bisogna volare. Un po' quello che poi hanno detto altri miei amici che dicevano bisogna sognare. Lui lo chiamava volare. Lui volava. Hemingway volava. E proprio questa sua capacità di volare l'ha portato alla fine della sua vita ad ammalarsi. Alla fine degli anni 50 soffre di crisi maniaco-depressive. È convinto di essere pedinato dall'FBI e di avere un cancro. Viene ricoverato in ospedale, dove è sottoposto a numerosi elettroshock. Continua a soffrire di allucinazioni, finché una mattina di luglio del 61 la moglie viene svegliata da un forte colpo di fucile. Ernest si è ucciso. Solo il giorno prima avevano cantato insieme una canzone imparata a Cortina insieme a Fernanda. Tutti mi chiamano Bionda, ma Bionda io non sono. Hemingway decide di andarsene proprio mentre nel mondo succedono molte cose. La guerra fredda che incombe, il drammatico sigillo del muro di Berlino che divide l'Occidente dall'Est. Sono gli anni del socialismo che bussa alle porte dell'America con Castro. E il 9 febbraio del 1961 i Beatles si esibiscono per la prima volta al Cavern Club di Liverpool. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati si parla di libertà, a partire da un incontro avvenuto nel secondo dopoguerra tra Fernanda Pivano ed Ernest Hemingway a Cortina. Fernanda è all'inizio della sua ricerca, Hemingway quasi al capolinea di una vita al massimo. Da quell'amicizia per Fernanda si intensifica l'interesse nei confronti della letteratura americana che avrà nella Beat Generation il suo apice. Fernanda, dopo quell'incontro, cambia la sua vita. Diventa la traduttrice ufficiale per Mondadori delle opere di Hemingway e nello stesso tempo tende un occhio a quello che sta succedendo oltreoceano. Sente che qualcosa si sta muovendo. Nel 56 fa il suo primo viaggio in America, dove incontra Dos Passos, Faulkner. Sono gli anni della Beat Generation. Beat come battito, ritmo, quello del jazz che imperversa con la sua modernità. Beat come beatitudine, per un certo misticismo indotto dalle droghe e dall'alcol. Beat come battuto, sconfitto. Una sconfitta che viene dalla società e dalle sue imposizioni. Alla Pivano sembra di riconoscere in quelle definizioni un po' di quei discorsi fatti a Cortina, con Ernest. Il suo lavoro di traduttrice ormai è consolidato. Dopo il 56 porta in Italia quella ventata di nuovi scrittori tra cui Jack Kerouac, Allen Ginsberg, andando a conoscerli di persona. Il suo metodo, come insegnava Mr. Papa, è una commistione di biografia e immaginazione. Si basa sulla testimonianza diretta, sulla storia del costume e sull'indagine storico-sociale. Il suo interesse non si ferma alla parola scritta. La passione che ci mette è talmente grande che deve poterli frequentare anche al di là delle loro opere. Diviene così ambasciatrice del beat e instaura amicizie con autori leggendari, diventando nel tempo a tutti gli effetti protagonista e testimone dei più interessanti fermenti letterari di quegli anni. E allora io mi sono inserita in questo movimento, che era un movimento molto... molto bello, molto antifascista. La mia base politica e intellettuale è stata l'antifascismo, un antifascismo che per me era diventato poi anarchia, che era la difesa della libertà a tutti i livelli. La Beat è sinonimo di libertà. L'America è sinonimo di libertà. L'altra America, quella pacifista, quella della rivolta contro gli ideali borghesi. L'America di Jack Kerouac, di Gregory Corso, di Allen Ginsberg. La loro battaglia contro la violenza è diventata la sua. Durante gli anni 60 la sua casa milanese è un importante punto di riferimento per chi gravita intorno al movimento B. Non a caso è lei a ispirare nell'ottobre del 1966 il titolo di Mondo Beat a quella che è considerata la prima rivista underground italiana e che inizia le pubblicazioni nel novembre del 1966. Tutti hanno dormito da me, ma non con me, da me. È una cosa diversa, sai. Magari si poteva anche fare, ma però non si è fatto. Tutti la amano, non solo perché è una bella ragazza, ma anche perché è appassionata di ciò che fa. Ci mette l'anima e quando deve scoprire un nuovo talento, cosa che le piace molto fare, non si limita all'opera, ma vuole conoscere l'autore. Jack Kerouac ne è affascinato. You're a beautiful girl, you are Fernanda Pivano. I am, yes. You are a great intellectual girl of Milano. Sei bella. Sei Fernanda Pivano. Tu sei una grande intellettuale di Milano e sei bella. Negli anni 60 Nanda è tra Parigi e l'America. intensifica i rapporti con Ginsberg e a San Francisco è a cena con Bob Dylan. Eclettica e aperta al nuovo, si interessa anche di musica. Nel 72 cura l'introduzione alla raccolta delle ballate di Dylan. Grande estimatrice della musica leggera italiana, negli anni 70, quando De André le dirà che vuole mettere in musica la sua Spoon River, perché dopo quella prima traduzione del 43 è la sua Spoon River, Nanda non ci vuole credere. Da allora anche De André è il suo De André. Quando gli consegnerà il premio Tenco, nel 1997, gli farà una vera e propria dichiarazione d'amore. Io non so esprimere la felicità, la gioia e l'orgoglio che provo nel tenere tra le mani questo riconoscimento di Fabrizio De André, che considero il più grande poeta in assoluto degli ultimi anni 50 italiani. E che ricordo come il dolce menestrello che per il primo ci ha fatto le sue proposte di pacifismo, di non violenza, di anticonformismo, che sono tutte annidate nei nostri cuori. E adesso, pensando a questo, mi pare che sempre di più sarebbe necessario che, invece di dire che Fabrizio è il Bob Dylan italiano, si dicesse che Bob Dylan è il Fabrizio americano. Fernanda è sempre la stessa di quell'incontro a Cortina con Hemingway, solo con molta più esperienza sulle spalle. Mister Papa se n'è andato, ma ha trasferito alla sua Nanda la passione per la libertà che lei cerca continuamente nei nuovi scrittori, come Jay McInerney. Per me Fernanda abbraccia la gamma di tutta la letteratura americana del Novecento. Ha iniziato traducendo Hemingway. La narrativa moderna americana comincia con lui. Fernanda ha tradotto Hemingway, Faulkner, Fitzgerald. Era amica di Hemingway, mi ha raccontato storie incredibili. Poi ha adottato la generazione seguente di scrittori importanti, i Beat, i modernisti. È stata la madrina di Kerouac, Ginsberg, dei Beat. Mi sono sentito importante quando Fernanda ha adottato me e il mio lavoro ed ha dichiarato che rientravo in questa tradizione. Perché lei coglie perfettamente il senso della cultura letteraria americana del Novecento. È un grande onore se Fernanda scrive di te. Lei lavora sul campo, come un'antropologa. La vita è importante, non gli studi che sono stati fatti sui suoi libri. Così fa con le nuove generazioni, come allora. Così fa, ad esempio, con Bret Easton Ellis, l'autore di American Psycho. In any other country, I don't know of a figure... Non esiste nessuno che abbia non lo stesso potere, perché non si tratta di quello, ma la stessa passione nel diffondere la letteratura americana in Italia e che spinga la gente a leggere. Non c'è definitivamente nessuno. Da mezzo secolo la letteratura americana deve a quell'incontro a Cortina nel 48 la sua diffusione nel nostro paese. In quel mondo schiacciato dalla controcultura fascista, lei aveva aperto uno squarcio di meraviglia, traducendo i suoi amici. Fernanda ha continuato a crederci fino alla fine, anche quando il mondo stava andando in un'altra direzione, quando all'età di 92 anni, il 18 agosto del 2009, ci lascia. La frase che compare nella homepage del suo sito riassume il disincanto degli ultimi anni della sua vita. Con molto dolore per i morti e per la tragedia, devo dichiararmi perdente e sconfitta, perché ho lavorato 70 anni scrivendo esclusivamente in onore e in amore della non violenza e vedo il pianeta cosparso di sangue. È stata scritta all'indomani dell'attacco delle Torri Gemelle, un pezzo di storia del nuovo millennio che si vorrebbe cancellare. Ma questa è un'altra storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.